Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Saremo insieme fino a mezzogiorno per occuparci come sempre della nostra salute e del nostro benessere. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Primo forum internazionale sull'alimentazione e la nutrizione. Influenza A, te la canto e gliele suono. Pillola naturale per una contraccezione a misura di donna. Si svolge domani a Roma la prima edizione del Forum internazionale su alimentazione e nutrizione organizzato dal Barilla Center for Food and Nutrition. È un centro di pensiero multidisciplinare nato proprio con l'obiettivo di mettere a fattore comune tutte le migliori conoscenze e competenze in tema di alimentazione e soprattutto di approfondire i suoi legami con l'ambiente, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico e demografico. Noi oggi ci occuperemo di una delle quattro aree tematiche del forum, quella più specificatamente impegnata a dimostrare come un corretto stile alimentare influisca sulla qualità della vita e sulla salute dell'uomo. Abbiamo il piacere di avere in linea due grandi medici che fanno parte dell'Advisory Board del Barilla Center for Food and Nutrition, che domani a Roma parteciperanno al forum in qualità di relatori e che oggi ci regaleranno qualche anticipazione. Saluto il professor Gabriele Riccardi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Professore di endocrinologia e metabolismo all'Università Federico II di Napoli e presidente eletto della Società Italiana di Diabetologia. Ed è con grande piacere che in linea da Miami abbiamo il professor Camillo Ricordi. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Voi mi sentite bene? Noi la sentiamo bene, professore. Ricordo che il professor Ricordi è direttore del Centro sul Diabete all'Università di Miami. L'uomo è ciò che mangia, scriveva il filosofo Feuerbach in tempi non sospetti a metà dell'Ottocento, e sicuramente mai si sarebbe immaginato che il suo pensiero avrebbe avuto una controprova coi fiocchi. Infatti esiste all'interno della comunità scientifica la convinzione sempre più forte che il nesso tra stile di vita e salute sia diretto e molto intenso. Lo ripetiamo più volte ai microfoni di Essere Benessere che le nostre scelte di vita possono avere un impatto decisivo sulla nostra salute, penso al fumo, così come concorrere a metterla al riparo da alcune malattie gravi e in certi casi diventare terapia. Nell'ambito delle scelte individuali l'alimentazione gioca senz'altro un ruolo determinante, ma professor Riccardi, è più corretto parlare di alimentazione o di nutrizione? Entrambe le parole che noi spesso usiamo come sinonimo saranno a lungo esplorate e declinate nelle relazioni del forum che si aprirà domani. Quando noi parliamo di alimentazione facciamo riferimento a delle scelte, a quello che noi concretamente mangiamo tutti i giorni. La nutrizione invece è la scienza che cerca di interpretare appunto l'impatto che queste diverse che quello che è presente all'interno dei diversi alimenti, gli stessi alimenti, hanno poi sulla salute dell'uomo. Professor Ricordi, la vita media si è allungata, ma contemporaneamente notiamo un aumento considerevole delle malattie croniche, che spesso sono state definite le malattie del benessere, quindi malattie cardiovascolari, diabete, obesità, ma anche tumori. È una popolazione quindi quella che di oggi più longeva, ma che deve fare i conti con alcune malattie che hanno, abbiamo visto, una relazione molto stretta con lo stile di vita e con l'alimentazione in particolare. Che lettura possiamo dare a questo fenomeno? Cosa c'è di sbagliato nel modello alimentare dell'uomo contemporaneo e quali sono le evidenze? In pratica è un problema molto importante, perché siamo arrivati a dei livelli di non sostenibilità della spesa sanitaria a livello mondiale, perché se da una parte si è prolungata la vita e la sopravvivenza media grazie a tecnologie sempre più specializzate, farmaci sempre migliori, alla capacità di team specialistici di mantenere in vita e prolungare la vita grazie a tecnologie avanzate, dall'altra c'è uno sviluppo epidemico delle forme di malattie degenerative croniche, dal sovrappeso, l'obesità, il diabete, malattie cardiovascolari, fino ad arrivare al cancro e anche le malattie neurodegenerative, per cui si tratta più che altro di cercare di prolungare la vita media senza malattie, la vita media ma sana, non la vita media in presenza di malattie croniche, perché i costi sono diventati a livelli insostenibili. Se pensate che nel 1980 negli Stati Uniti il costo della spesa sanitaria era di 250 miliardi di dollari, nel 1990 è salito sopra i 700 miliardi di dollari e oggi è 2.200 miliardi di dollari e si prevede raddoppierà entro il 2018. E questa è chiaramente una progressione che non è sostenibile da nessun tipo di economia. Allora, se guardiamo cosa c'è alla base di tutte queste patologie croniche degenerative, la nutrizione e l'alimentazione hanno un ruolo fondamentale, probabilmente il maggior ruolo insieme al stile di vita e ambiente, per cui se riuscissimo a fare anche dei piccoli miglioramenti nel campo dell'alimentazione, delle proposte di cibo che si offrono ai consumatori, potrebbe dare dei risultati incredibili e molto importanti dal punto di vista di prevenzione e di riduzione di queste epidemie. Professor Riccardi, io credo che prendendo spunto da quanto abbiamo appena sentito possa esserci d'aiuto soffermarci su un dato che forse meglio di tanti altri può farci capire quanto sia importante rifornire il nostro organismo con la quantità e la qualità soprattutto corretta di carburante. L'80% delle malattie non trasmissibili, quelle cardiovascolari, il diabete, il tumore, che rappresentano oggi, mi sembra, il principale fattore di rischio per la salute dell'uomo, nonché, come ricordava il professor Riccardi, un enorme peso socio-economico per l'intera collettività, potrebbero essere proprio prevenute eliminando alcuni fattori di rischio. Penso al consumo di tabacco, penso alle diete poco salutari e all'attività fisica, ma anche il consumo eccessivo di alcol. Allora proviamo a trasferire quelli che sono i dati della ricerca in indicazioni pratiche per i nostri ascoltatori? Certo, io vorrei partire proprio dal dato che lei ha citato, che diciamo ricordare ai nostri ascoltatori che questo dato non è frutto soltanto di un calcolo teorico. Noi sappiamo per esempio che negli ultimi 20 anni il numero di eventi cardiovascolari, di malattie cardiovascolari, infarto, ictus, angina, si è dimezzato nella maggior parte dei paesi del mondo, per esempio negli Stati Uniti, ma è successo questo anche in Italia. Ora, perché è migliorata la situazione rispetto alle malattie cardiovascolari? Uno pensa subito alla tecnologia, alle nuove possibilità di intervenire, bypass aortocoronarici, gli stent, e questo in parte spiega questa riduzione delle malattie cardiovascolari, ma spiega soltanto la metà. L'altra metà di questa riduzione degli eventi cardiovascolari è legata al cambiamento che si è avuto nei fattori di rischio, proprio quello che dice lei, al fatto che si è ridotto il fumo di sigarette, è ridotto il valore di colesterolo, di pressione arteriosa. C'è solo un dato che va in controtendenza: in questo periodo è aumentato, negli ultimi 20 anni, è aumentato il numero di persone che sono obese e in sovrappeso, e di pari passo è aumentato anche il diabete. Quindi un grosso beneficio in termini di rischio cardiovascolare legato al miglioramento complessivo dei fattori di rischio, però un poco si è andato in controtendenza proprio perché c'è stato questo incremento di obesità e diabete. Quindi la dieta, lo stile di vita può fare moltissimo per ridurre il numero di malattie cardiovascolari, ma anche di diabete e di cancro. La cosa veramente, la buona notizia, la cosa che è venuta fuori poi da questo documento che Barilla Center ha prodotto, che è disponibile in linea sul sito web del Barilla Center for Food and Nutrition. Questo documento si chiama Alimentazione e Salute. La notizia buona che dà è che in effetti lo stesso stile di vita che può essere utile per prevenire le malattie cardiovascolari è in grado anche di ridurre il rischio di tumori e il rischio di diabete. Quindi ecco, il cittadino, il consumatore non deve cervellarsi rispetto a scelte che potrebbero essere diverse e qualche volta contraddittorie per la prevenzione dell'uno o dell'altra delle malattie più diffuse nel mondo occidentale, ma uno stesso modello di vita, uno stesso stile di alimentazione può essere utile per prevenire le malattie più diffuse oggi in Italia e nella maggior parte dei paesi occidentali. E questo modello in buona parte poi coincide anche con il modello della dieta mediterranea. Certo. Io non voglio dire che la dieta mediterranea sia, rappresenti, diciamo, il modello unico per la prevenzione di queste patologie. Anche la dieta, per esempio, asiatica, la dieta che viene praticata in Giappone, si associa a una lunga aspettativa di vita e a un basso numero di eventi cardiovascolari, di malattie neoplastiche e di diabete. Però ecco, noi che abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove questa dieta mediterranea è stata una parte importante della nostra tradizione culturale, ma anche una tradizione gastronomica, ecco, per noi diventa più facile riscoprire un po' le radici, le caratteristiche di questa dieta mediterranea e, applicando questo modello, riuscire a combattere quelle che oggi sono, diciamo, i maggiori killer per l'uomo moderno, e che sono appunto i tumori, le malattie cardiovascolari, il diabete. Professor Ricordi, è chiaro che una dieta troppo ricca di calorie fa salire l'ago della bilancia, ma io vorrei che lei ci spiegasse perché una dieta sbagliata ci fa ammalare. C'è stato uno studio molto importante che è stato pubblicato recentemente su più di 20.000 persone seguite per una media di 11 anni, che ha dimostrato che un semplice intervento che combina quattro stili di vita alimentare, che sono il consumo di almeno 4-6 porzioni di frutta e verdura al giorno, rappresentate da dei livelli di vitamina C nel sangue di un certo superiore a un certo livello, il fatto di non fumare, una moderata attività fisica, moderato consumo di alcol, più di una bicchiere al giorno ma meno di 14 la settimana, sono dei fattori che permettono di ridurre di 4 volte la mortalità in questi 11 anni e corrispondono a un aumento dell'aspettanza di vita, dell'aspettanza di longevità di 14 anni. Per cui questi sono dati molto importanti e fanno ritornare al concetto che moderando e alterando lo stile alimentare si possono ottenere dei risultati importanti. Comunque il discorso che sta alla base di tutte queste patologie croniche, dall'obesità al diabete, a malattie cardiovascolari e altre neurodegenerative che abbiamo citato, è il discorso, a mio avviso, dell'infiammazione. In pratica, con un'alimentazione sbagliata, con la tipica western diet, i McDonald's, i fritti, i trans fat, la carne rossa e tutti gli alimenti a base di acido arachidonico che aumentano le forme di infiammazione vascolare, cosa portano? Portano al fatto che uno continua a cercare di riparare questo danno di fondo, anche se molto piccolo, che segue a ogni pasto, questo rilascio di molecole infiammatorie, questo microdanno al microcircolo, che in pratica consuma cellule progenitrici ed endoteliali che vengono continuamente richiamate per riparare questi microdanni. Per cui a lungo termine quello che succede è che uno esaurisce prima e sviluppa prima fenomeni come arteriosclerosi, ma anche abbassa in genere le difese verso altre possibili malattie, dai tumori all'infiammazione, alle infezioni, incluse le infezioni virali. Per cui lo stile alimentare corretto, aumentare frutta e verdura, cercare di limitare al massimo carne rossa, evitare trans fat e tutti questi alimenti che sono proinfiammatori, è molto importante, perché uno non si accorge subito, ma poi con l'andare degli anni questo tipo di infiammazione subliminale di base nel nostro circolo porta dei danni cronici che possono essere molto gravi. Professor Ricordi, abbiamo parlato dell'importanza quindi di una dieta salutare e abbiamo sottolineato soprattutto il ruolo protettivo di frutta, verdura, aggiungerei cereali integrali, un consumo limitato di carne rosse. È importante però aggiungere anche il ruolo di quelli che voi definite micronutrienti. Che cosa sono e come possono aiutarci? La dieta mediterranea, che in effetti rappresenta proprio la sintesi di questo mangiare in maniera corretta, di un'alimentazione sana, ha proprio tutte le caratteristiche utili per combattere questi fattori dell'infiammazione di cui ci parlava il professor Ricordi. La prima cosa, nella dieta mediterranea noi abbiamo un basso contenuto di grassi animali. I grassi animali sono tra quelli che maggiormente sono in grado di stimolare i processi infiammatori. Viceversa, nella dieta mediterranea abbiamo una larga rappresentanza di prodotti di origine vegetale che hanno un'azione antiossidante, quindi proteggono dall'ossidazione, che è un fattore negativo per le arterie e per la loro funzione ottimale. E quindi noi, a partire dall'olio d'oliva, che è l'olio che maggiormente viene utilizzato, il grasso di condimento maggiormente utilizzato nella dieta mediterranea, ma anche appunto spostandoci verso i cereali integrali, i legumi, la frutta, la verdura consumata in abbondanza, noi abbiamo la possibilità, ecco, di difenderci dall'infiammazione, difenderci dallo stress ossidativo. Tutte queste le verdure, i diversi colori delle verdure corrispondono proprio a diversi principi che hanno una funzione di antiossidazione. E noi non possiamo utilizzarne uno solo, dobbiamo utilizzare una molteplicità di questi fattori, perché ognuno all'interno di questa catena dello stress ossidativo gioca un ruolo importante per la difesa contro l'infiammazione e contro l'ossidazione, che poi portano al danno delle arterie. Ora, questo modello, che è nato nel sud Italia, nelle regioni diciamo contadine del sud Italia, è stato scoperto dal famoso fisiologo Ansel Keys negli anni 50, è un modello che poi nel corso degli anni si è dimostrato utile per la prevenzione di queste patologie anche in altri paesi. Pensi che se noi valutiamo, per esempio, negli Stati Uniti d'America, la dieta abituale di diversi cittadini americani, e caratterizziamo questa dieta sulla base di un indice di mediterraneità, cioè quanto più la dieta assomiglia a una dieta che veniva utilizzata nell'Italia meridionale negli anni 50, tanto più questo indice è alto, e viceversa quanto più si allontana, quindi la dieta di McDonald's di cui ci parlava il professor Ricordi, si allontana, diciamo, in qualche modo da questo indice di mediterraneità. Ora, dividendo questa popolazione sulla base di questo indice, noi vediamo che quanto più è alto l'indice di mediterraneità della dieta, ma questo dico in America, in Australia, in Nord Europa, tanto più migliora il rischio di malattie cardiovascolari, il rischio di sviluppare il diabete, il rischio di cancro. E viceversa, quanto più ci si allontana da questo indice, tanto più l'alimentazione si associa a una maggiore frequenza di queste malattie. Ora, la cosa che ci deve far riflettere è che il primo paese che si sta allontanando progressivamente da questa alimentazione mediterranea tradizionale è proprio l'Italia. Se noi confrontiamo oggi gli stessi paesi dove si è fatta la dieta mediterranea, dove si è fatto il Seven Country Study, Monte Giorgio, Crevalcore, Nicotera in Calabria, andiamo a misurare qual è la dieta oggi in queste realtà, vediamo che è completamente stravolta. I grassi animali la fanno da padrone, carne due volte al giorno, pesce consumato raramente, l'olio d'oliva sì c'è, ma in aggiunta agli altri grassi, per cui poi nel complesso questa dieta diventa molto ricca, ipercalorica, ed ecco che l'Italia è tra i paesi europei con una maggiore frequenza di obesità, soprattutto nei ragazzi. Siamo al primo posto in Europa per l'obesità nei ragazzi e negli adolescenti, perché ecco, a quegli alimenti sani della dieta mediterranea, che in parte sono stati in qualche modo mantenuti, sono stati poi aggiunti altri alimenti che non erano caratteristici della nostra alimentazione. E stiamo toccando con mano che fanno pure male. Torniamo ad occuparci della nostra dieta. Sappiamo che è importante fornire al nostro organismo del carburante di ottima qualità nelle giuste quantità per far funzionare la macchina corpo adeguatamente. Ne parliamo oggi con il professor Riccardi e il professor Ricordi, che è in linea con noi da Miami. Professor Ricordi, con lei andiamo alla ricerca. C'è un nesso tra nutrizione, geni, prevenzione o predisposizione verso alcune malattie? Sì, senz'altro. C'è anche, sempre di più viene studiato il collegamento fra nutrizione, alimentazione e la comparsa, l'espressione di geni che possono essere protettivi o portare alla predisposizione ad alcune malattie. Per esempio la cosiddetta nutrigenomica, che studia l'interazione fra alimentazione e micronutrienti e fattori nella nutrizione di ogni giorno che possono influenzare l'espressione di geni che possono sia proteggere che predisporre a malattie, è una scienza che sta esplodendo come disciplina. Ci sono già i primi dati molto incoraggianti sia su molecole che possono proteggere dal cancro, per esempio, antiossidanti molto potenti che possono portare degli effetti protettivi in situazioni tipo obesità, sovrappeso, diabete. E credo che sarà sempre di più una scienza, una disciplina che entrerà in sinergia con altri aspetti di intervento per cercare di bloccare queste epidemie di malattie degenerative croniche. E quindi, professore, pensando al futuro, che cosa succederà? Come la nutrigenomica concretamente ci aiuterà a vivere a lungo, ma soprattutto a vivere bene, quindi non solo anni alla vita, ma anche qualità a questi anni? In pratica si tratterà di studiare in maniera coordinata come l'introduzione di alcuni stili alimentari o di alcuni alimenti o di alcuni micronutrienti con un semplice dosaggio del sangue possono portare a evidenziare dei geni che possono venire o stimolati o soppressi, e sono dei geni, delle specie di firme molecolari che portiamo dentro, che possono darci un'indicazione generale se stiamo muovendoci verso la protezione o verso la predisposizione di alcuni stati e malattie croniche. Per cui direi senz'altro sarà sempre di più una disciplina che sarà alla portata di proprio dei test specifici che si potranno fare, perché un conto è studiare e dire questo intervento, questo stile alimentare, se continuate per 30 anni vi porterà all'esaurimento delle vostre capacità rigeneratrici di riparazione tissutale, e l'altra avere dei marker surrogati, come quelli che si dicono i surrogate markers, che sono dei marker molecolari che uno può evidenziare nel sangue da un prelievo e avere un indice molto più precoce di quali che saranno i problemi poi a lungo termine, perché è impossibile pensare di poter fare degli studi longitudinali prospettici per ogni nuovo micronutriente o stile alimentare, ci vorrebbe troppo tempo e troppo costosi. Allora, io intanto vi ringrazio e chiedo a ciascuno di voi di chiudere questa nostra chiacchierata con una raccomandazione o un consiglio. Professor Riccardi. La mia raccomandazione è di cercare di ritornare alle origini, riscopriamo quelli che sono un po' le ricette dei nostri nonni, il loro modo di alimentarsi, il loro stile di vita, attività fisica, movimento, moderazione a tavola, non eccedere nella quantità degli alimenti, anche gli alimenti più salutari, mangiati in eccesso comunque fanno male alla salute. Io credo che questo possa contribuire significativamente a rafforzare quella riduzione degli eventi cardiovascolari che stiamo osservando in Italia e che sempre più, diciamo, potrebbe farci ritornare ad essere il paese guida dal punto di vista dello stile alimentare e della salute come lo siamo stato per il passato. Professor Riccardi, vuole aggiungere qualcosa? Comunque direi che senz'altro un ritorno alle origini e alla dieta mediterranea è importante, anche ritornare in un certo senso alle tradizioni di quella che era la vita a tavola in famiglia, in cui si mangiava lentamente, con il problema del fatto che lo stimolo della la sensazione di sazietà ci mette 20 minuti, mezz'ora ad arrivare, per cui purtroppo quello che si dice il logorio della vita moderna, questi pasti sempre consumati più in fretta, in maniera veloce, con poco tempo, è anche una delle ragioni della sovralimentazione, per cui bisogna riproporre anche degli stili proprio di cultura del cibo, di nella cena in famiglia, chiacchierando, parlando di problemi vari, introduce dei tempi anche che permettono poi allo stimolo della sazietà di comparire. È anche importante cercare di evitare e di combinare non solo l'alimentazione sana e genuina, ma anche evitare quei cibi che si sa, o con la scienza della nutrigenomica, la metabolomica, alla scienza in genere biomedica, che sono cattivi e dannosi al nostro organismo, come limitare al massimo gli zuccheri semplici, concentrarsi sui carboidrati complessi, guardare l'indice glicemico dei cibi, per esempio anche nei cereali ci sono prodotti come il pane bianco, le patate, che hanno un indice glicemico molto alto, mentre la pasta per esempio ha un indice glicemico molto basso, è molto più adatto come alimento, come i cereali integrali, e concentrarsi e cercare di assumere vegetali e frutta più che uno può, e evitare o limitare al massimo carne rossa, trans fat e grassi animali in genere. Allora, quindi prendiamoci tempo e privilegiamo la qualità e una quantità adeguata, senza eccessi. Io ringrazio il professor Camillo Ricordi da Miami, che è stato con noi e domani sarà insieme al professor Riccardi ed altri esponenti, ricercatori medici, alla prima edizione del Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione che si terrà a Roma. Ringrazio allora i miei ospiti. Buona giornata, grazie davvero. Grazie, grazie a tutti. E adesso è tempo di cantarle e suonarle all'influenza A, la nostra iniziativa che vuole fare prevenzione in musica. Bene, oggi c'è una new entry scritta, cantata e suonata da un gruppo molto particolare, i Tre Lilu. Il nome già la dice lunga, ma io la faccio breve perché lancio subito la parola a Gigi Garanzini, che dei Tre Lilu sa vita e miracoli. Ciao Gigi! Cara Nicoletta, in realtà i Tre Lilu sono quattro, esattamente come quattro erano i Tre Moschettieri, e non soltanto tre. Questi quattro pazzi che si chiamano, non so se nominarli in ordine alfabetico, forse sì, allora facciamo Bertu, Franco, Peru e Pippo, sono quattro grandi personaggi langaroli, con un concetto geografico di Langa un pochino esteso. Loro furoreggiano su questo territorio. Sono innanzitutto dei bravi musicisti e questo da un lato insomma, mi fa rimpiangere che siano così settorializzati dal dialetto, perché sono veramente bravi da un punto di vista musicale e avrebbero un successo, non dico universale, ma certamente oltre i confini. Il dialetto, ovviamente, il dialetto langarolo stretto, strettissimo, li chiude, no? Entro certi confini. Quindi io mi metto nei panni di chi adesso la canzoncina la sentirà, la ascolterà soltanto, qualche fiero problema di traduzione l'avrà, beati quelli che invece ce l'hanno sul video, che ovviamente è sottotitolato non tanto per i non piemontesi, ma proprio per i non langaroli. Ripeto, dalle nostre parti, Langa e immediati, strettissimi dintorni, i Tre Lilu sono davvero come i Tre Moschettieri, e non solo perché sono quattro, e basta, e vi direi, ti direi soprattutto buon ascolto a te e a tutto il tuo popolo di Essere Benessere. È l'influenza, a foste propri ma, vanta stessa ca, e binguaggiara. Se ti ho fame, mangia. Se ti ho sei, bella. Se ti ho pau, grippa. Se tu il denaro ma so, e bella. Se tu gli abiti la mascherina, e bella. Se tu veri la mette il man, l'occhi. Se tu gli stai a ca, stylo. O se tu gli indi per lì, no. È l'influenza, a foste propri ma, fanta stessa ca. E il guacciarò. Tan, se ti acciopi il trattenì, tan. Se ti acciopi il trattenì, tan. Se ti acciopi il trattenì, tan. Scusa, Motti, io ti l'influenza? Ciù! E noi abbiamo in linea Roberto Belle, in arte Bertu, che è uno dei Tre Lilu, che sono quattro. Ciao Bertu! Tutto bene? Tutto benissimo, e voi? Beh, ma noi stiamo mica male, non la mettiamo. Io ho bisogno, Bertu, che tu ti identifichi. Chi sei dei quattro? Io sono Bertu, sono il chitarrista, quello col fazzoletto in testa, sempre arrabbiato. Voi avete anche un abbigliamento, i nostri ascoltatori possono vedere il video sul sito di Radio 24, e siete anche vestiti un po' stranetti. Sì, abbiamo un po' questo abbigliamento di questi nostri campagnini della Langa, come diceva Gigi prima, che in sostanza vanno a messa, questo accadeva fino a 30-40 anni fa, almeno con quell'abbigliamento lì, però ogni tanto qualcuno si vede ancora, ecco. Senti Bert, tu sai che noi siamo nel pezzo, perché si sta discutendo proprio in questi giorni, e il dibattito è abbastanza acceso, se inserire anche brani in dialetto al Festival di Sanremo. Il regolamento della RAI che è stato approvato lo permetterebbe, il Comune di Sanremo nicchia, noi invece abbiamo già fatto una scelta, ci siamo già schierati, il dialetto entra a fare prevenzione. Beh, giustamente, ma anche perché comunque l'influenza la beccano anche quelli che parlano il dialetto, no? Sanremo, visto che hanno già detto che il dialetto non interessa, hanno già detto di no, probabilmente quella lì è stata, diciamo così, una scelta per fare un po' di pubblicità, magari fra 2 anni diranno che fanno cantare anche qualche animale, chi non sa. Senti, e quindi magari andate anche voi a Sanremo. Speruma. In linea con noi abbiamo il medico che ha sostenuto e appoggiato i tre Lilu, che è il dottor Massimo Landi da Torino, pediatra. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buona mattina a tutti. Che avventura, Sì, complimenti, la canzone è molto divertente. Senta, ma chi gliel'ha fatto fare a lei di seguire quello che Gigi Garanzini ha definito? Sono quattro matti molto famosi. Io, non dovendomi identificare, perché non compaio da nessuna parte, sono più tranquillo, ecco, cioè, non ci metto la faccia, come si suol dire. Comunque, sentendo i tre Lilu, si ritorna un po' a un mondo, no? Sembra di fare un po' un viaggio a ritroso nel tempo, e il buon senso ci ha salvato. Infatti il messaggio importante di questa canzone è di tornare un po' al buon senso. Come diceva Oscar Wilde, il buon senso c'era, ma si era perso nel senso comune, no? E oggi i nostri tempi sono un po' questi, per cui si va dietro spesso a un sentire, a un modo di dire, al sentire comune, mentre invece si dovrebbe ritornare a quello che è il buon senso generale, insomma, che i nostri vecchi sicuramente avevano, appoggiandoci a quelle che sono, per carità, le tecnologie di oggi. Quindi si può fare un mix sicuramente vantaggioso, ecco, da questo punto di vista. Avrebbe dovuto parlare in dialetto anche lei, ma il langarone è molto stretto, e quindi, tra l'altro, arrivano già tantissimi messaggi dalle vallate di Bergamo, dall'Alta Langa, ad esempio Maurizio ci scrive, quindi avete già tre Lilu degli ammiratori, anche fuori Langa. Allora io chiederei al mio tre Lilu, non in dialetto trelilese, ma insomma, di darci, dato che siete in quattro buoni motivi per andare sul sito e dare la preferenza al vostro videoclip. Senti una cosa, hai anche Peru in linea. Fammi parlare, non ho ancora detto niente. Allora, non lo sapevo. Lo senti? Ciao, Peru. Già, c'è anche Peru. Senti, Peru, come sei vestito tu? Sono vestito da Lilu di Langa, c'ho la barba da fare, ma ho detto, speriamo che in radio non mi vedano tutti. E poi c'ho delle belle pantofoline, di quelle che vanno bene nelle lunghe serate invernali, e ho il clarinetto, perché in questa band suono il clarinetto. Senti, allora, sono contenta che voi siate in due, perché voi dovete darci quattro motivi per scegliervi. Allora, due a testa, così non bisticciate. Chi inizia? Ber, tu? Facciamo ping pong. Dai, allora, fate ping pong. Come si dice ping pong in langarolo? Sceglierci, intanto perché, soprattutto perché parliamo il dialetto, facciamo spettacoli, cantiamo canzone dialettale, come ho detto prima, l'influenza attacca anche chi parla dialetto, purtroppo, e che sia speriamo di essere in questa cosa una bandiera per tutti quelli che come noi parlano e cantano il dialetto, ecco. Visto che mi hai detto che da Bergamo arrivano delle buone notizie, come da altre parti. Anche da Roma, voglio dirti. Adesso è arrivata anche da Roma, insomma, ne arrivano un po' da tutta Italia. Allora, passiamo a Peru. Peru. Un secondo buon motivo, allora, perché quando proviamo ci troviamo molto spesso a Carrù, a Piozzo, che da proprio sulle Langhe, sono gli ultimi paesi della pianura prima delle Langhe, e lì si mangia benissimo, quindi adesso che ci sarà la fiera del bue, tutti giù a mangiare la carne rossa, ed ecco un buon motivo per votare. Allora, Bertu, tocca a te. Rapidamente palleggiatevi gli altri due ultimi motivi. Un altro buon motivo, quale può essere? Guarda, che noi siamo ben contenti intanto di essere in radio, perché speriamo che questo contagio che ha l'influenza A contagi anche tutti quelli che hanno la curiosità di andare sul nostro sito trelilu.it a vederci, a vedere come siamo vestiti e a votarci anche, chiaramente. Quindi che il contagio sia con voi, ecco, va bene come slogan. Mi piace. Peru, chiudi tu. Allora chiudo io. Il quarto buon motivo per votarci, perché così anche Franco nella scuola è più contento, perché i suoi compagni di scuola finalmente gli diranno: ma sei famoso, Franco, ti abbiamo visto in radio. E così anche il papà di Franco, Filippo Pippo, sarà molto contento che tutti i suoi compagni di scuola, per la famiglia, facciamolo per la famiglia. Evviva. Allora, io saluto i due dei quattro Trelilu e li ringrazio, quindi potete vedere il loro video e votarli sul sito di Radio 24, e quindi festeggiamo questa new entry. Ringrazio il dottor Massimo Landi, pediatra, tra l'altro sentinella, quindi alle prese ancora con l'influenza, che però sta calando, no, dottor Landi? Va bene. Calando, certo. Quindi la prevenzione funziona. Grazie, dottor Landi, grazie Trelilu. Ciao, grazie a tutti. Ciao. E adesso noi restiamo in Piemonte e ci colleghiamo con Torino, dove si sta svolgendo il secondo congresso nazionale della Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia. In linea con noi abbiamo il presidente, il professor Marco Massobrio. Buongiorno, professore. Buongiorno. Professore, tra i tanti temi di cui state discutendo in questo congresso, che rimette un po' la donna al centro, quindi nella sua, nel suo benessere psicofisico globale, parlate anche di pillola naturale, una pillola che quindi sembra già dal nome più in sintonia con le richieste delle donne di oggi, che vogliono qualche cosa di più vicino, più naturale, devo ripetere proprio l'aggettivo. Noi abbiamo pochi secondi, possiamo già anticipare qualcosa e poi magari domani ritorniamo a fare un approfondimento? Senz'altro, sì, si tratta di una pillola nuova, in quanto diversamente da tutte quelle prodotte negli ultimi 40 anni, da quando fu inventata da Pincus, questa pillola, invece di un estrogeno sintetico che è l'etinile estradiolo, contiene l'estrogeno che è esattamente identico, un estrogeno che è esattamente identico a quello prodotto dall'ovaio, che si chiama appunto estradiolo. E per questo motivo effettivamente è tollerata meglio, perché l'impatto metabolico di questa pillola è assolutamente minimo, in quanto si tratta appunto di un composto, per quanto riguarda quantomeno la componente estrogenica, esattamente identica a quella naturale. Quindi una pillola che è particolarmente indicata alle donne che hanno superato gli anta e quindi sono però più sensibili, e questa è la soluzione. Meno male che ci siete arrivati, professor Massobrio. Io so che lei ha i minuti contati, e anche noi. Buon convegno, ci sentiamo per degli aggiornamenti. Grazie, in fieri. Grazie al professor Massobrio, un saluto a Torino, saluto anche a voi che ci avete accompagnato e seguito. Appuntamento a domani, parleremo di rabbia. Vi voglio qui, ma non arrabbiati. A domani. Essere e benessere.